7. Ascolta e controlla. 1. Hai dato tutti gli esami? No, ne devo dare ancora uno. Chimica. 2. Avete prenotato il volo? Sì, l'abbiamo appena prenotato. 3. Signora, ha ricevuto i documenti? Sì, e li ho già firmati. 4. Quanti libri hai acquistato in questo mese? Ne ho comprati solo 3. 5. Hai invitato tutti i compagni di classe? Certo, li ho già avvisati. La festa è domani.